A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Il più noto ora è Silvio Berlusconi, destinato all'assistenza ai malati di Alzheimer, ma in questo momento in tutta Italia sono ben 11.742 le persone che scontano la loro pena affidate al servizio sociale, chi con gli anziani, chi con i disabili, altri impiegati in attività utili alle città. Sempre più spesso i condannati per i reati più diversi saldano così il proprio debito con la giustizia, con un percorso di rieducazione. Una soluzione favorita sempre di più insieme alle altre pene alternative anche dalla situazione di drammatico affollamento delle carceri italiane, su cui pende il giudizio della Corte Europea di Strasburgo del 28 maggio. Ed è anche per questo che nell'ultimo trimestre si è registrato un aumento. L'Italia prova così ad evitare multe pesantissime per le condizioni disumane delle nostre celle, anche mandando le persone condannate per vari reati, compresa la frode fiscale, come nel caso più noto del momento, a dare una mano alla società. Pure in centri di assistenza per disabili, anziani e malati psichici, come l'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone. E in questo momento non è neanche l'unico a dover scontare qui la sua condanna, perché, come sentiremo più avanti, anche altri manager sono stati catapultati da un giudice tra i problemi degli anziani. Alcuni degli oltre 11.000 che ora sono in affido al servizio sociale, più al nord che al sud, riferisce il dirigente nazionale dell'ufficio esecuzione penale esterna, Eustachio Vincenzo Petralla. Dal 15 aprile noi avevamo 11.742 persone in affidamento in prova al servizio sociale. Sì. Di queste 5.245 sono al nord, 2.289 al centro e 4.208 al sud. Ecco, questa differenza, anche se non particolarmente significativa, di numeri è dovuta alla tipologia dei reati o anche ad una diversa, diciamo, tendenza per cui più spesso, diciamo, si affidano ai servizi sociali dei condannati al nord piuttosto che in altre zone del paese? Essenzialmente in relazione al numero dei soggetti che fanno istanza. I tossicodipendenti attualmente sono, diciamo, circa 3.300, ecco, non sugli 11.700. Ecco direttore, l'affidamento in prova ai servizi sociali per i condannati è chiaramente un percorso riabilitativo che viene stilato da giudici di sorveglianza, da voi, quindi l'ufficio esecuzione penale esterna, e da tutti, diciamo, gli operatori che seguono il percorso dei singoli condannati, e si conclude, diciamo, con una relazione conclusiva. Che cosa dicono le vostre statistiche sulle conclusioni dei percorsi delle persone che sono in affidamento? Noi abbiamo dei tassi di successo elevatissimi per l'affidamento al servizio sociale. Le revoche sono intorno al 4% circa, ma le revoche per comportamento per aver compiuto altri reati sono nell'ordine dello 0,6%, credo, quindi molto molto basso. Il tasso di revoche è molto basso. Tra le revoche bisogna segnalare il fatto che un certo numero, circa il 3%, è conseguenza della segnalazione fatta dall'ufficio di esecuzione penale esterna sulla non idoneità della condotta, perché qui stiamo parlando di persone che stanno eseguendo una pena, anche se in una forma più leggera rispetto alla pena detentiva, e quindi l'ufficio di esecuzione penale esterna segnala ogni volta che rileva delle condotte non conformi agli obblighi imposti, segnala al magistrato di sorveglianza la condotta non conforme, poi certo, e che quindi prende le decisioni. Quindi questo vuol dire, ad esempio, cioè non rispettare le prescrizioni che il tribunale di sorveglianza e l'UEP delle varie città stabilisce, che potrebbe essere, diciamo, sono prescrizioni comportamentali, sono prescrizioni di orari, sono prescrizioni anche di condotte specifiche da avere nei luoghi dove si espleta il proprio servizio. Ci sono delle prescrizioni che comportano comportano dei divieti e delle prescrizioni che comportano degli obblighi. Ce ne sono alcuni comuni a tutti, indipendentemente? Alcune sì, alcune prescrizioni ad esempio? Sono comune. Ad esempio gli orari di uscita dalla casa, dall'abitazione, oppure gli spostamenti in determinate zone. Se una persona deve svolgere un'attività lavorativa in certi orari, viene autorizzato ad andare in quegli orari, ad uscire dall'abitazione, anche se svolge un'attività lavorativa di notte. Certo. Ecco, direttore, allora, la conclusione del percorso di affidamento ai servizi sociali porta a distinguere la pena e anche i suoi effetti collaterali. Questo c'è un orientamento che è relativo all'estinzione delle pene accessorie, nel senso delle sanzioni pecuniarie, ma non delle altre pene accessorie. Su questo c'è una giurisprudenza che non è univocamente orientata. Cioè vuol dire che in alcuni casi si accetta che decadano le pene accessorie, come il pagamento di, non so, di ammende, di sanzioni di tipo economico, ma non le altre pene, come ad esempio esatto. Anche quella dell'interdizione dai pubblici uffici? Esatto, sì. Non sempre, non è collegato a questo. Non è automatico, diciamo. No, non è automatico. Quindi eventualmente questi sono tipo di decisioni che poi vengono stabilite in una nuova udienza dal Tribunale di Sorveglianza? Sì, il Tribunale di Sorveglianza al termine dell'affidamento al servizio sociale decide se la pena va considerata espiata, se la condotta è stata conforme, può disporre con una propria declaratoria l'estinzione della pena e stabilire quali altri effetti penali si debbano considerare. È stata nel tempo favorita questa strada, questa delle pene alternative, anche in virtù della difficile condizione delle carceri italiane? Sicuramente. Noi oggi abbiamo in corso circa 31.000 diverse misure alternative, di cui di 11.700 affidamenti sono una parte, ma ci sono 10.000 detenzioni domiciliari, 4.800 soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità. L'affidamento in prova, diciamo che è la misura più classica, che in gergo europeo viene definita di una misura di probation, proprio perché si tratta di una prova che nel caso vada a buon fine comporta appunto l'estinzione della pena. La misura è in crescita da alcuni anni, è in crescita proprio perché c'è una spinta al maggior utilizzo delle sanzioni di comunità, come vengono definite dall'Unione Europea, in luogo della detenzione, cioè la detenzione dovrebbe essere una delle sanzioni e non la principale. Questo è l'orientamento, diciamo, dei paesi europei e anche dell'Unione Europea. Da parte del Tribunale di Sorveglianza, ma poi anche da parte degli altri operatori, a cominciare da voi, cioè dall'Ufficio Esecuzione Penale, in qualche modo è progressivamente stata più propensa e aperta verso l'affido sociale, anche per precisi input dovuti alla condizione delle carceri italiane. E indubbiamente sì, c'è un orientamento ad utilizzare di più le misure alternative alla detenzione. E questo perché hanno dimostrato una maggiore efficacia dal punto di vista della prevenzione della recidiva. E questo è un vantaggio, diciamo, per la sicurezza della comunità e della società, perché meno recidiva significa più sicurezza. Quindi chi viene affidato ai servizi sociali più difficilmente incorre commette lo stesso reato. Sì, abbiamo un tasso di recidiva inferiore di circa 4 volte al tasso di recidiva di coloro che sono in detenzione. Il 28 maggio è attesa la famosa e anche temuta sentenza della Corte Europea di Strasburgo sullo stato delle carceri italiane. Sono stati presi tanti provvedimenti di vario genere, i piani carceri sono molto complessi e articolati, però in qualche modo anche il settore dell'esecuzione penale esterna rientra in questo quadro più ampio. C'è stato un incremento ulteriore di uscita dalle celle in vista anche di questa scadenza verso un affidamento in prova, quindi verso pene esterne al carcere? Abbiamo osservato nell'ultimo trimestre un incremento dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare a seguito dell'approvazione della legge recente sulla messa alla prova, che non è ancora entrata in vigore, ma soprattutto sulla trasformazione in legge del decreto legge 146, che è quello che ha ampliato le possibilità di accedere alla misura alternativa. Abbiamo osservato un incremento che non è rilevantissimo, perché non c'è stato nessuno svuota carceri naturalmente, però è un processo graduale di spostamento prudente di una parte della detenzione verso le misure alternative, e sicuramente siamo scesi, le statistiche di oggi parlano di una scesa sotto i 60.000 detenuti. E a dover fare i conti ora con i colloqui, con gli assistenti sociali, con le verifiche dell'UEPE, con le prescrizioni dei giudici di sorveglianza, che poi alla fine dovranno dire se effettivamente la pena sia stata scontata, c'è anche l'ex premier Silvio Berlusconi. A ciascuno il suo. Prima di lui c'è stato Arnaldo Forlani, altro presidente del Consiglio, condannato a 2 anni e 4 mesi e poi affidato al servizio sociale. Correva l'anno 1998 e l'ex segretario della DC fu considerato colpevole nel processo sulla tangente Enimont e poi mandato a dare una mano alla Caritas di Roma. Ora Silvio Berlusconi per 10 mesi e 15 giorni, pena residua su 4 anni dopo gli sconti per l'indulto e quelli automatici, dovrà presentarsi una volta a settimana per almeno 4 ore all'ospizio Sacra Famiglia di Cesano Boscone alle porte di Milano e alla Palazzina San Pietro, dove si assistono i malati di Alzheimer, che dovrà offrire la sua collaborazione agli operatori e ai volontari dalle 9.45 in poi, non quindi nelle ore del lavoro più difficile del primo mattino, ma nelle attività successive, quelle di stimolo, animazione, ma pure nell'assistenza ai pasti, che può voler dire anche imboccare chi non riesce a mangiare da solo. È in questo parco di palazzine basse e alberi sparsi, dove il dolore però ti cammina accanto ad ogni passo, che è stato affidato l'ex premier per decisione dell'ufficio esecuzione penale e della Caritas Ambrosiana, che ha individuato questa struttura tra le tante che si erano anche autocandidate. Qui si fatica, non c'è spazio per intemperanze e campagna elettorale, ma qui le persone riscoprono il valore dell'essenzialità, commenta il direttore Paolo Pigni, seduto nel suo ufficio tra quadri antichi e vecchi e cartine geografiche, dice: fate scontare qui dove serve la pena ai condannati. Pigni infatti è fiducioso degli effetti positivi che questa esperienza possa avere pure sull'ex premier, catapultato per volere di un giudice in una realtà così distante dalla sua vita. Accoglie persone con disabilità gravi e gravissime, anziani non autosufficienti, anche pazienti psichiatrici. Lei lo ha detto molto esplicitamente, qui non c'è spazio per barzellette e non c'è spazio neanche per la campagna elettorale. Era chiaramente riferito a questo volontario particolare come Silvio Berlusconi, che inizierà presso la vostra struttura il suo percorso di riabilitazione dopo la condanna definitiva al processo Mediaset. In che cosa consiste una giornata, una mattinata all'interno della struttura dei malati di Alzheimer, che è quella a cui è stata destinata l'ex premier, per ora con l'obbligo di 4 ore settimanali, quindi dalle 9.45 fino a ora di pranzo? È un'attività molto concentrata sui bisogni personali specifici di ciascuno dei 20 ospiti del nucleo. Durante la giornata le persone vengono attivate, no? Attraverso attività fisiche, attività di tipo cognitivo, cioè per tentare di stimolare attraverso percorsi e giochi specifici, e attraverso attività animative che tengono conto delle esigenze e delle capacità delle singole persone. C'è di tutto. Poi c'è il momento del pasto. Ci arriviamo, perché questo è chiaramente un passaggio importante. Lei ha però appunto detto: niente barzellette, niente intemperanze, niente campagna elettorale. Allora, sicuramente niente campagna elettorale, niente intemperanze, non credo che ci fosse stato bisogno di dirlo. Ho trovato il dottor Berlusconi assolutamente sereno e disponibile rispetto al nostro progetto. Le barzellette vanno benissimo se sono all'interno di un discorso. Se leggiamo la barzelletta come una banalizzazione del lavoro di animazione e di accompagnamento, non è quello che ci aspettiamo. Un sorriso sono elementi non solo possibili, ma sono gli elementi centrali. Voi gliel'avete già detto che sarete rigidissimi anche su ogni tentativo di utilizzare comunque anche questo percorso di riabilitazione in una struttura di questo tipo a fini elettorali. Lui comincia questo percorso quando siamo a meno di un mese dalle elezioni europee e c'è già chi dice va a prendersi i voti degli anziani. Anch'io ho letto sui giornali che c'è già chi dice si va a prendersi i voti degli anziani. Io so perfettamente che Silvio Berlusconi sta facendo campagna elettorale. Io non ho avuto nessun tipo di impressione o di preoccupazione rispetto al fatto che voglia utilizzare l'attività delle nostre strutture in questo senso. Lui che cosa ha detto? Non ci sono stati nessun tipo, non c'è stato nessun problema, è stato concordato come una cosa ovvia, no? Da questo punto di vista. Cioè gli avete fatto anche capire che lui dovrà in qualche modo, diciamo così, mettercela davvero come partecipazione non solo fisica ma anche volitiva. Questo è stato detto con chiarezza e si è condiviso con lui il fatto che si tratta di entrare in una organizzazione che è al centro delle persone di questo tipo per dare il proprio contributo, anche in termini di suggerimenti. Direttore, adesso ci racconterà anche che cosa vuol dire lavorare e partecipare all'attività del pasto. Io però volevo cominciare, diciamo, anche a introdurre la questione degli effetti che questo tipo di attività porta in chi presta servizio, perché poi appunto se Berlusconi è arrivato qui è perché il Tribunale di Sorveglianza, l'Ufficio di Esecuzione Penale ha stabilito per lui un percorso riabilitativo di un certo tipo e poi è stata scelta la vostra struttura anche su indicazione della Caritas. Voi avete già avuto in passato delle altre persone che sono state affidate ai servizi sociali prestando attività nella vostra struttura? Sì, noi abbiamo qualche persona, non tantissime. Adesso o in passato? Anche adesso c'è qualche persona che sta lavorando, vi sono situazioni differenti, c'è anche tutto il mondo delle pene legate a piccoli reati o a piccole infrazioni del codice della strada. Ci sono persone che a un certo punto si trovano a essere scapicolate qui, magari facendo il manager, perché andavano troppo veloci o avevano bevuto una birra. Che tipo di effetto provoca in queste persone lavorare per un periodo che sia diverso, insomma un mese, due mesi, tre mesi, in una struttura di questo tipo, quindi catapultate da una realtà, da una quotidianità di consigli di amministrazione, riunioni, ad una giornata scandita dalla necessità di imboccare degli anziani, di spingere delle carrozzine. Portano a casa, nella maggior parte dei casi, una visione molto diversa da quanto si può trovare in altri contesti rispetto all'essenzialità. Secondo lei che tipo di, diciamo, di lascito, che tipo di eredità potrà lasciare in una persona come Silvio Berlusconi con la sua storia, l'esperienza qui nella vostra struttura? Lui, considerando anche la sua vita, sia pubblica ma anche privata, il suo stile di vita. Che... Uno solitamente pensa che le cose che capitano a se stesso possono capitare anche agli altri. La messa che la famiglia sta dando veramente tanto. In termini anche proprio di cambiamento della sua vita personale? In termini di cambiamento della mia visione della vita. E pensa e spera che in questo in qualche modo possa portare anche a cambiamenti anche nelle altre persone, Berlusconi compreso. Cioè... Qui si respira un mondo che è molto sensibile, a leggere e a rispettare i limiti dell'altra persona. Spesso si dice per le carceri della necessità di portare il mondo di fuori all'interno delle strutture e dei mondi chiusi. In un certo senso è un mondo in parte chiuso per gli ospiti anche su una struttura di questo tipo. La presenza di persone, diciamo, che vengono affidate come per un percorso riabilitativo all'interno di queste strutture in qualche modo può rispondere anche a questo tipo di esigenza? Noi ci crediamo, ci stiamo investendo. Guardate che è una bella fatica. Si sentirebbe di dire aumentate il numero di persone affidate ai servizi sociali perché noi ne abbiamo bisogno. Probabilmente dovremo recuperare qualche risorsa anche economica per poter seguire meglio le fasi di inserimento, gli abbinamenti giusti e i progetti. Credo che sarebbe per il nostro paese una grande opportunità. Stavamo dicendo che una delle attività a cui molto probabilmente dovrà prestare servizio, comunque collaborerà anche l'ex premier Berlusconi e anche quella del pasto. Il pasto per le persone malate di Alzheimer con un'età così avanzata, lei ha detto l'età media è di 85 anni, potrebbe voler dire anche il bisogno di imboccare questi anziani. Un momento di intensa relazione, un'attività che che richiede un avvicinamento graduale, un addestramento molto molto importante che credo che Berlusconi con altri, con gli operatori, potrà sicuramente prendere in mano con successo dopo un po' di tempo. Ecco. È un'attività comunque molto importante, tutt'altro che banale, compreso di imboccare le persone se serve. Rischio intemperanze, diciamo così, da parte anche di qualcuno che possa non avere in simpatia politica Silvio Berlusconi, secondo voi è un rischio che non esiste? È un rischio che a mio avviso nell'ambito del nucleo è assolutamente inesistente o comunque gestibile e controllabile dal personale che c'è lì. No? Loro hanno fatto qualche obiezione alla vostra indicazione dell'assenza di scorta? Non c'è stato nessun problema, l'aveva posto come tema centrale anche la dottoressa Panarello dell'UEPE. Qualora nascano delle situazioni tali da far pensare a dei rischi per l'incolumità, è chiaro che prenderemo in esame la situazione. Siamo di fronte ad una struttura che ha delle porte particolari per non far uscire gli ospiti quando non devono uscire. Durante la permanenza di Berlusconi gli uomini della scorta saranno lì davanti, ci saranno nostri, rafforzeremo in particolare la sicurezza attorno alla struttura. Chi entra, dobbiamo sapere chi è e perché entra durante quelle ore. Misure di sicurezza le avete prese ulteriori? Ci saranno, ovviamente. Ecco, non pensiamo che ci possano essere interventi tali, no, di tale violenza e presenza di persone da mettere in discussione questo modello. Ultima cosa, e nel rischio pensate che ci possa essere da qualche tifoso non soddisfatto dell'andamento del Milan quest'anno oppure di qualche interista? Questo gliel'avete anche detto a Berlusconi? Ci sono milanisti, interisti, juventini. Finora riusciamo a gestire l'ordine pubblico anche a lunedì. Sicuramente moltissimi ospiti hanno ricollegato la figura di Berlusconi alla presidenza del Milan e di conseguenza questo ha diviso chi è contento perché è milanista e chi forse meno contento. Però lui vi ha detto che sarebbe stato in grado di gestirla come situazione. Non si è preoccupato più di tanto per la presenza di interisti e juventini, penso che ne sia abituato. E voi siete favorevoli a mandare sempre di più i condannati ai servizi sociali invece che in cella? Se vi va, scrivetecelo sulla pagina Facebook di Storiacce, ricordate Storiacce, o sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!